9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 9 di giugno e ribadisco quello che vi ho detto nel lancio della trasmissione. Faremo due puntate particolari della versione di Oscar oggi e domani, perché il tema ovviamente è di dare tutto il giusto rilievo, lo abbiamo fatto ma fuori dal clou della campagna referendaria settimane fa, ai quesiti referendari, per cui domani, cioè scusate, domenica e lunedì gli italiani sono chiamati a decidere innanzitutto se andare a votare. E il mio appello esplicito, lo dico come conduttore, una delle poche cose esplicite che dirò in questa trasmissione di oggi, un po' diversa dalle altre, è il mio appello personale, la mia opinione personale, capisco l'opinione di tutti, ma andate a votare. Io non perdo mai l'occasione, da che ci sono i referendum e ho l'età per andare a votare, per dire la mia. Io sono per che i cittadini esprimano nella pienezza delle loro diverse valutazioni i diritti che sono loro consentiti nella Costituzione, da questo che è praticamente l'unico strumento di democrazia diretta che abbiamo. Sono referendum abrogativi, io addirittura sono a favore, ve l'ho detto mille volte, per cui di propositivi alla Svizzera eccetera, quindi per carità rispetto l'opinione di ciascuno, ma la mia opinione è che sarebbe non troppo sensato non andare a votare. Capisco tutte le considerazioni che una parte di voi starà facendo, però la mia opinione resta questo. Però io ho deciso in queste due puntate, sentendo anche colleghi della rete e del giornale radio, di darmi una regola, nel senso che poiché sono impegnato nella campagna referendaria e sono presidente di uno dei comitati per il no sui due quesiti dell'acqua, mi è sembrato che non fosse corretto nei vostri confronti e non fosse corretto nei confronti di un giusto confronto aperto su piede paritario alle diverse idee fare un po' l'ipocrita, cioè fare il conduttore che dice sì, per carità, io sono impegnato ma come conduttore sono supra parte. Mi sarebbe sembrato un po' sciocco, poi sapete anche che non fa parte del mio carattere tenere la lingua frenata, quindi abbiamo deciso di fare così. Oggi dedichiamo l'intera puntata a nome di coloro che sono per la abrogazione quindi per i due quesiti sull'acqua, per quello sul nucleare c'è anche il legittimo impedimento, e tutta la puntata sarà fatta dalle vostre telefonate che ho chiamato fin dal lancio della trasmissione e che continuo a chiamare l'800240024 con Ermete Realacci, di cui ho grandissima stima e che è da sempre uno dei più importanti esponenti dell'ambientalismo italiano, che naturalmente è per il sì. La mia opinione è: chiamate direttamente, sia vogliate andare, non vogliate andare, che cosa avete capito dei quesiti, non avete capito, che cosa è secondo voi l'intenzione vera e le conseguenze di qualunque tipo. E io, fatta questa premessa, mi limito semplicemente a chiamare le telefonate e a consegnare il microfono a lui, e domani facciamo una cosa simmetrica dal punto di vista di chi invece si batte per il no, ma mi è sembrato più corretto nei vostri confronti. Abbiamo immediatamente una telefonata e cominciamo direttamente dal primo ascoltatore, Alessandro, che ci chiama da Napoli. Prego Alessandro. Buongiorno. Salve signor Realacci, come stai? Buongiorno. Senta, io ho deciso di votare no per il quesito sul nucleare, perché io ritengo che in Italia noi abbiamo già avuto il nucleare e abbiamo già avuto alcuni privati, con le invenzioni statali che Giannino sempre ci ricorda, che hanno provato a fare azienda. E questi investimenti sono rimasti lì un po' abbandonati, quindi io penso che comunque ci sia bisogno, visto che ce l'abbiamo e visto che ce l'abbiamo anche tanto vicini in Francia, di avere una cultura nucleare, sul nucleare, che ci aiuti in casi di difficoltà come quelli di Fukushima, come quelli di Chernobyl, ma soprattutto su quelli che abbiamo già, come quelli della Casaccia, piuttosto che come quelli dei Macelleto di Carinola. Non so se lei si ricorda perché l'hanno chiusa, ma io faccio finta di essere più intelligente di lei e di ricordarglielo, perché quando è arrivata l'informativa della modifica zona sismica e della messa in sicurezza dell'impianto come se fosse una zona sismica, quella di Sessa Urunca dopo il terremoto, l'investitore ha preferito spegnere le macchine e abbandonare l'impianto lì, rendendola praticamente una bomba a tempo che adesso nessuno si preoccupa di gestire, così come per le altre centrali nucleari. Ho visto in alcuni servizi televisivi di report che le imprese che sono state chiamate a sistemare quello che si doveva essere lo smantellamento dell'impianto non sanno neanche da che parte cominciare, non sanno come predisporre gli ambienti nei quali dopo cominciare a smontare tutto l'impianto. E quindi questa assenza totale di cultura, questa ignoranza radicata dentro al nostro, diciamo, establishment o in qualche azienda italiana in quanto tale, domani potrebbe crearci difficoltà per quello che già abbiamo, che è poca roba, e per tutto quello che ci circonda. Grazie Alessandro. Ma io, per quanto riguarda la necessità per l'Italia di avere una cultura nucleare, sono d'accordo. È chiaro che noi in ogni caso dobbiamo fare i conti col problema della sicurezza, delle centrali che sono vicine al nostro paese, del ciclo del nucleare in generale, dello smantellamento e della gestione delle scorie del vecchio nucleare che avevamo. Ma le dico una cosa in più, io sono anche favorevole a che continui la ricerca sul nucleare. Non posso escludere che vengano fuori in futuro forme di nucleare. Si parla del nucleare di quarta generazione, prima ancora della fusione, che ha tempi piuttosto lunghi, che possono risolvere i problemi aperti che sono legati alla sicurezza, alla gestione delle scorie, al legame con il nucleare militare. Però proprio le cose che lei dice ci fanno capire perché il nucleare non è un buon affare per l'Italia. Vede, lei sta parlando della centrale del Garigliano. La conosco, la centrale Galliano era chiusa da molto prima del referendum perché era una vecchia centrale, e noi continuiamo a pagare in bolletta 300 milioni di euro all'anno per smaltire le scorie del nucleare italiano, che era poca cosa, è quello che Tremonti dopo Fukushima ha definito debito atomico, cioè il fatto che nel nucleare bisogna tener conto anche dei costi legati allo smantellamento e alla gestione delle scorie. Allora, senza farlo troppo lungo, io le dico una cosa, capisco chi ha le centrali, cioè, e soprattutto capisco la Francia, che ha un peso del nucleare nella produzione di energia elettrica fortissimo, circa l'80% dell'energia elettrica francese è prodotta con il nucleare, ma chi deve entrarci deve fare i conti anche con i costi oltre che con la sicurezza, e dal punto di vista dei costi non c'è alcun dubbio che il nucleare non è una forma di energia conveniente e non lo è per l'Italia. Ermette, vogliamo un secondo parlare dell'impatto che avrà il quesito, perché sì, il governo ha fatto un tentativo di evitarlo, la Corte di Cassazione ha preso una decisione che è in linea con una precedente sentenza della Corte, la Corte aveva già spiegato in precedenza di aderire a una linea sostanzialista quando si tratta di fronteggiare tentativi dei governi in carica di non far tenere i quesiti una volta che i referendum sono stati indetti. In realtà nel merito e le conseguenze quali saranno? Sì. Allora, voglio fare una premessa non solo per ricambiare la stima sincera nei confronti di Giannino, lui lo sa che stimo e per il quale ho simpatia, indipendentemente dalle posizioni che uno esprime, anzi per fortuna quando uno ha, diciamo, una dialettica con gente intelligente, ecco, diciamo così. Voglio fare una premessa che riguarda proprio la questione dei referendum. Io penso che insomma le partite si giocano con le regole che uno ha in quel momento, ma tutta la partita dei referendum va rivista, perché è chiaro che il vero nemico di questi referendum è il quorum. Bisogna portare a votare 25 milioni e mezzo di cittadini italiani. Per capirci, 25 milioni e mezzo è come se dovessero andare a votare tutti coloro che hanno votato per tutte le forze di opposizione del 2008 più 8 milioni e mezzo di quelli che hanno votato per le forze di governo. Sono numeri abbastanza impressionanti. Io penso che il nostro referendum andrebbe rivisto. In che direzione? Sono d'accordo con Giannino. Bisognerebbe, uno, introdurre anche il referendum propositivo, perché questa confusione dei quesiti, questa difficoltà dei quesiti deriva anche da questo, che uno deve cercare di esprimere un punto di vista abrogando e non dicendo quello che vuole fare, diciamo, no? E questo è valso per tanti, per tutti i referendum, anche per quelli che siamo chiamati a votare in questa occasione. A mio avviso bisognerebbe anticipare il giudizio della Corte Costituzionale. Magari uno raccoglie 50.000 firme, sottopone il quesito alla Corte, la Corte dice sì, si può fare o non si può fare, alzare il numero delle firme in maniera tale da selezionare, diciamo, anche i referendum, non ci può essere un abuso dello strumento, si può portare avere meno raffiche di quesiti, che sono poi il motivo vero per cui dal 95 non si è poi più fatto un po'. Si può tranquillamente arrivare a 1 milione di firme, anche perché l'Italia ha banalmente più abitanti e più mezzi di comunicazione di quanto fu fatta la legge sul referendum, ma a quel punto bisogna eliminare il quorum, cioè bisogna che ci sia un confronto ad armi pari, come accade in tutti i paesi del mondo in cui il referendum si usa con più frequenza, la Svizzera, gli Stati Uniti. Quando si va a votare, i favorevoli e i contrari si confrontano, perché altrimenti la partita è un po' truccata. Dopodiché, detto questo, la Corte di Cassazione, sì, vogliamo, ha preso sul serio le parole del Presidente del Consiglio, diciamo le cose come stanno, diciamo. Perché se il governo si fosse limitato ad abrogare, diciamo, le norme che erano sottoposte al referendum, che erano tantissime, sono, adesso i cittadini non lo troveranno sulla scheda perché la scheda è cambiata, ma erano quattro pagine di norme, che erano tutte le norme legate alla possibilità di localizzare gli impianti nucleari, diciamo. Se si fosse limitato a fare questo, il governo nulla questio, diciamo, si andava nessun problema, si andava incontro alla volontà di coloro che avevano promosso il referendum. È stato aggiunto in questo famoso articolo 5 un comma 1 e un comma 8. Il comma 1 parla della necessità di coordinare una verifica sulla sicurezza come preliminare alla decisione con gli altri paesi dell'Unione Europea. Il comma 8 parla della necessità di dotarsi di un piano energetico. In astratto nulla di drammatico. Il problema è che questa cosa è stata presentata da molti esponenti del governo e in maniera palmare dal Presidente del Consiglio come sostanzialmente una presa in giro dei cittadini italiani, perché lui ha detto non potevamo fare altrimenti, perché se si votava adesso gli italiani avrebbero detto di no al nucleare, allora noi abbiamo fatto in maniera che non si votasse perché così fra un anno possiamo riprendere la strada. Ha detto testualmente così, ed è chiaro che questo in qualche maniera è il contrario di quello che la Corte di Cassazione deve sancire, perché la Corte di Cassazione deve valutare se le modifiche che sono intervenute vanno incontro alla volontà dei proponenti. Siccome la volontà dei proponenti non era quella di sospendere per un anno il piano nucleare, ma di impedire la realizzazione di centrali, ha fatto una scelta. Non entro nel merito dei tecnicismi giudiziari. È sostanzialista, è stata la sostanza. Come hai detto tu, sostanzialista. Ha detto, beh, allora non è rispettata la volontà, allora si voti, ecco. E quindi le conseguenze saranno non tanto quanto alla lettera. Sì, no, ecco. Stop al nucleare, diciamo. Poi le altre cose, è chiaro che l'Italia, anzi avrebbe dovuto farlo da tempo, deve, come ha detto anche l'ascoltatore, tenere d'occhio i temi della sicurezza. Là, come è chiaro anche che l'Europa sarà molto difficile che abbia una politica fortemente vincolante e integrata sulla sicurezza nucleare, perché quando hai la Germania che dice esco in questi tempi e la Francia dice non uscirò già mai, poi alla fine... Realaccio, alcuni sms qui di ascoltatori dicono, sono i più critici, sì, quelli che sul voto del referendum, sì, dicono, però la realtà è che la parte politica che si è più impegnata al di là dei comitati referendari, cioè Di Pietro e altri pezzi della sinistra, hanno raccolto le firme, impostato la campagna solo per dare la spallata al governo. Chi va a votare si rende in realtà parte, ce l'hanno con me, ma parte di questo stesso disegno che prevale sul merito dei quesiti. Come risponde? Ma guardi, io onestamente su queste materie sono attento da tempo al merito, no? Io per esempio non avevo neanche firmato il quesito sul referendum nucleare, e non l'avevo firmato perché, essendomi nota quella trappola del quorum, no? Non volevo che una questione per me importante, che in ogni caso, diciamo, riguarda il profilo tecnologico economico del paese, cioè, ecco, io voglio dire anche questo, per me dire di no al nucleare non è una scelta un po' minimalista del tipo l'Italia non ce la può fare perché la mafia, è proprio una scelta tecnologica. Io penso che quando la Germania fa quella scelta che ha fatto con quella nettezza, aggiungo che la Merkel, dico una cosa forse che può essere considerata una bestemmia, la posizione della Merkel precedente era una posizione di buon senso da molti punti di vista, anche se gli ha fatto pagare un prezzo elettorale abnorme a lei e soprattutto ai liberali tedeschi, che erano la forza politica più favorevole al nucleare, che è stata massacrata. Perché loro avevano deciso di prolungare la vita, esatto, media di 12 anni. Perché in Germania nessuno aveva preso in considerazione l'idea di costruire una nuova centrale. Quello che aveva detto la Merkel era, vabbè, ma siccome... insomma, nelle centrali nucleari, Giannino lo sa molto meglio di me, il costo è fatto in questa maniera, a differenza delle altre fonti di energia. Costa tantissimo la costruzione, relativamente poco la gestione delle centrali, anche se l'uranio è aumentato di tanto, però poi alla fine incide poco, no? Tantissimo la chiusura della centrale e la gestione delle scorie. La Merkel ha detto, ma ce le abbiamo? Anche se c'era un accordo del governo precedente fra SPD e Verdi per la chiusura nel 2020, per quelle per cui è possibile, allunghiamo la vita, facciamoli pagare dazio per questo allungamento della vita, ma in questa maniera recuperiamo in qualche maniera risorse. Quindi non è una posizione folle da questo punto di vista, ma nel momento in cui la Germania ti dice io 8 centrali le chiudo subito, e le altre 9 che rimangono le chiudo entro il 2021-2022, è chiaro che lì non c'è solo una componente, diciamo, di risposta a orientamenti dell'opinione pubblica, ma c'è anche una formidabile sfida tecnologica. La Germania sta facendo, moltiplicato 10, nel campo dell'energia quello che ha fatto in altri settori: arrivare prima e battere gli altri e conquistare i mercati. Faccio un esempio piccolo. Io ricordo la polemica che ci fu in Italia, non so se Giannino lo ricorda, noi in particolare allora polemizzavamo con la Fiat sulla questione delle marmitte catalitiche, perché la Fiat sosteneva che per le macchine Fiat non servivano le marmitte catalitiche. Era evidente che si sarebbe andati alle marmitte catalitiche, che bisognava fare per questo la benzina senza piombo, che non era la panacea di tutti i mali, ma che insomma abbatteva alcune cose. Risultato: i tedeschi, che per primi introdussero le marmitte catalitiche, hanno venduto le marmitte catalitiche, sono stati i leader della tecnologia. Esatto. E questo è quello che sta accadendo nel solare, nell'eolico, nel risparmio energetico. Ci sono aziende tedesche che si occupano di risparmio energetico, che fatturano 2,5 miliardi di euro, non so l'ordine di grandezza. E io voglio, siccome l'Italia è il secondo paese manifatturiero europeo, io voglio che il nostro paese sia dentro questa sfida tecnologica e non abbia la testa rivoltata indietro. Allora, sentiamo altri ascoltatori, cominciamo con Marta che chiama da Livorno. Prego Marta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti a Giannino, al gattaccio, perché i gatti sono onesti intellettualmente. No, no, andiamo al merito, Marta, dai. Allora, volevo dire, indipendente intellettualmente, più che onesti, e andare a votare non significa dare il quorum a tutti i referendum. Quindi uno può andare a votare, votare no, sì, e ogni referendum calcola il suo quorum indipendentemente, così, è vero? Così. È assolutamente così. Ecco, però non viene mai detto, per cui le persone parlano di 4 referendum e 4 risultati, mentre invece possono essere differenziati. Sono 4 risultati, 4 schede, 4 quorum diversi. Certo, e quindi volevo dire che io voterò 4 sì. Grazie Marta. Stefano da Pavia, prego Stefano. Sì, buongiorno Giannino, buongiorno Realaggio. Una domanda di merito, perché mi piacerebbe votare sapendo o cercando di capire. Per quello che attiene al quesito sul nucleare, se mi spaventa il fatto di avere una centrale su cui comunque l'uomo magari non ha esattamente il pieno controllo, mi spaventa forse ancora di più l'alternativa, nel senso che non so, non ho capito in questi mesi, in questi giorni, se esiste un piano alternativo che è efficacemente in grado di sostituire l'energia nucleare. Perché se no cosa facciamo? Torniamo all'800. Le chiedo, perché non ho capito, vorrei approfittare della vostra competenza: esiste scientificamente, tecnologicamente un'alternativa nucleare, o ci ritroviamo tutti nel 2050 con le candele? Realacci. Beh, allora, diciamo innanzitutto che quando parliamo del contributo che eventualmente potrebbe dare il nucleare, è sempre un contributo parziale, perché anche nel piano più ambizioso del governo, che difficilmente si sarebbe realizzato, ammesso che fosse partita la costruzione delle centrali prima della seconda metà degli anni 2020, perché ci si parla del 2025 almeno per la costruzione di una centrale, perché ricordiamoci che è un paese insomma, che apparentemente perlomeno più serio e organizzato burocraticamente dell'Italia, cioè la Finlandia, ha in costruzione una delle due centrali nucleari che sono in costruzione in Europa occidentale. Ce n'è una in Francia e una in Finlandia, sono tutte e due con tecnologia francese, quella che doveva adoperare l'Italia. La centrale finlandese prima di Fukushima doveva essere completata entro il 2009, adesso, prima di Fukushima, si parlava di un'ultimazione dei lavori entro il 2013, neanche la Salerno-Reggio Calabria, diciamo, e di costi raddoppiati. Premesso questo, cioè che il piano del governo in ogni caso andava a coprire un quarto del fabbisogno di energia elettrica del paese. Un quarto del fabbisogno di energia elettrica del paese significa, tenuto conto che l'energia elettrica è un terzo dell'energia consumata nel paese, significa una percentuale relativamente ridotta, quindi non era la sostituzione delle altre fonti di energia. Le alternative sono legate innanzitutto all'uso efficiente dell'energia, che riguarda non solo l'energia elettrica ma un po' tutti i campi, e che riguarda, lo dicevo prima, anche una sfida tecnologica e produttiva. Voglio fare un esempio apparentemente minimalista: le nostre le case attualmente consumano mediamente il doppio dell'energia di una casa tedesca, irlandese o svedese. Questo significa non solo, diciamo, spreco energetico e maggiore inquinamento, ma significa una bolletta di almeno 1000 euro all'anno a famiglia. Mettere, diciamo, in ordine le nostre case, demolire, ricostruire, rilanciare l'edilizia su questa base, lo chiede anche l'Associazione Nazionale dei Costruttori, che sta da anni col segno meno, è uno dei delle componenti che soffrono di più nell'economia italiana. Esatto, è uno dei pochi settori in cui c'è stato invece un segno più, è stato proprio quel credito d'imposta del 55% che ha prodotto 1 milione di interventi nelle abitazioni degli italiani. Significa non solo una grande politica energetica, ma una grande politica economica e produttiva. Lo stesso vale per i motori elettrici, lo stesso vale per tanti campi. Se parliamo della produzione di energia elettrica, io dico questo: la Germania prima di Fukushima aveva presentato all'Unione Europea, e i tedeschi sono un paese serio per così dire, un piano in base al quale avrebbe prodotto quasi il 40% dell'energia elettrica entro il 2020, cioè il 38,9%, i tedeschi sono precisi alla virgola, con le fonti rinnovabili, percentuale che sarebbe salita all'80% nel 2050. Questo è un piano precedente alla decisione di chiudere le centrali. Vorrei ricordare che da questo punto di vista che la Germania rispetto all'Italia ha più vento, ma non ha idroelettrico quasi e non ha geotermico, quindi è di sole, obiettivamente ne ha un po' meno, di noi diciamo. Quindi era un piano ambizioso che corrisponde a quella sfida tecnologica e ha messo in moto un sistema industriale. Voglio fare un solo esempio: esiste un piano tedesco triangolato con l'Unione Europea che è una specie di piano Marshall per la sponda sud del Mediterraneo, si chiama questo piano Desertec, che prevede investimenti per 350 miliardi di euro, ripeto 350 miliardi di euro, per costruire grandi centrali solari termiche nella sponda sud del Mediterraneo. Termiche, che vuol dire? Per produrre energia elettrica dal solare ci sono oggi molte tecnologie in movimento che utilizzano anche vernici, insomma non voglio fare adesso una rassegna delle cose possibili, però attualmente due sono le strade principali: i pannelli fotovoltaici che traducono direttamente l'energia, le radiazioni solari in energia elettrica, e il cosiddetto solare termico, cioè si adopera il calore del sole per scaldare un fluido che poi a sua volta, scambiando con l'acqua, fa ruotare, come accade in una centrale tradizionale tra virgolette, sia che sia termoelettrica che sia nucleare, le turbine. Nel primo caso il solare fotovoltaico, la latitudine incide ma non in maniera mostruosa, cioè un pannello solare messo ad Amburgo ha un rendimento minore di un pannello solare messo a Palermo, ma la distanza non è abissale. Nel solare termico la distanza è notevole, perché è proprio il calore, non è la radiazione. Ed è chiaro che nel Nord Africa c'è tanto sole, tanti spazi, e con il calore che avanza uno può dissalare l'acqua del mare, e sappiamo tutti cosa vuol dire avere grandi quantità di acqua dolce nel Nord Africa. In parte poi questo piano prevede che questa energia elettrica venga importata direttamente in Europa. Bene, quando si sono messi in moto i tedeschi, adesso non vorrei fare l'elogio alla Germania perché poi sono molto patriottico italiano, per molti aspetti, siccome sono un paese, una grande azienda tedesca, per non fare nomi, la Siemens, si è comprata una quota, fortunatamente non di controllo, della migliore azienda di solare termico d'Europa, che è un'azienda italiana, l'Angelo Antoni, che lavorava con Rubbia su questi temi, perché nulla doveva sfuggire al suo controllo. Ora, io dico, un paese serio, visto che noi in Nord Africa abbiamo una presenza non marginale, per così dire, si dovrebbe preoccupare anche di queste grandi strategie, che sono strategie al tempo stesso tecnologiche, economiche, geopolitiche. Questa è la sfida, secondo me, da accettare. E che in qualche misura poi impattano anche sulla, uno degli aspetti, la dipendenza energetica, certo, rispetto al gas dall'Algeria, dalla Russia, eccetera, con una presenza invece che di investimento diretto in quelle stesse parti, magari, certo, in paesi. Peraltro anche sul gas, io lo dico per noi, io ho litigato in alcune parti d'Italia per far fare i rigassificatori, per capirci, che servono, perché i rigassificatori servono a aumentare la libertà del paese, sia dal punto di vista dei costi che dal punto di vista delle fonti di approvvigionamento. E nel gas, anche se anche lì rimangono dei problemi ambientali sull'estrazione, siamo negli ultimi 5-6 anni, abbiamo avuto una rivoluzione incredibile, perché la scoperta della maniera per estrarre gas da strati particolari che avevano apparentemente poche quantità di gas ha raddoppiato le riserve mondiali di gas e ridotto molto i costi. Eccoci tornati in studio con Ermete Realacci, che è lui oggi l'ospite unico che risponde alle vostre domande sui quesiti referendari. Abbiamo detto che ricominciamo da Umberto, che ci chiama da Lucca. Prego Umberto. Umberto, ci sei? Sì, eccomi qua, mi sentite? Prego. Sì, sì, buongiorno, la sentiamo, Nico. Allora, buongiorno. Vorrei fare una considerazione in merito al referendum sull'acqua. Vi è noto, ma è meno noto sicuramente a chi ci ascolta, che se il gestore del servizio idrico integrato aumenta l'efficienza, diciamo riduce gli sprechi, ed esempio riduce le perdite che normalmente superano il 40% e cerca di abbassarle, fino ad ottenere un utile di bilancio, okay, è obbligato per legge a ridurre le tariffe. Quindi che cosa accade? Se si toglie anche la remunerazione del capitale investito, vuol che dire il secondo che quesito, lo diciamo per chi non lo avesse ancora chiaro, lei sta parlando del secondo quesito sull'acqua. Sì. Esattamente, questo vuol dire che il gestore sarà eternamente in passivo e i bilanci saranno automaticamente ripagati con le tasse. E questa immagino che sia la sua considerazione da girare al commento di Realacci. No, ma io sono d'accordo. Adesso ci vorrebbe che ci fosse la versione di Oscar. Cosa intendo dire? Voglio anche essere qui molto onesto. Io voterò due, ovviamente, o in ogni caso, se non ovviamente, due sì ai referendum. Anche se io ne avevo firmato solo uno di quei due referendum. Non avevo firmato il nucleare perché avevo paura del quorum. I referendum sull'acqua li consideravo una grande campagna per porre questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica, anche se non si fosse fatto il quorum, cosa che sarebbe stata purtroppo probabile in assenza dell'incidente di Fukushima, e ancora oggi è da vedere se ci sarà o meno il quorum, viste le norme che dobbiamo usare per il referendum. Io avevo firmato solo quello dell'abrogazione della legge Ronchi, mentre non avevo firmato il quesito sulla remunerazione del capitale, perché diciamo so che poi gli investimenti servono. Ecco, io per capirci non ho mai pensato, come diceva anche l'ascoltatore alla fine, che poi gli investimenti per la salvaguardia, per la gestione della rete dovessero essere presi dalla fiscalità generale. Bisogna garantire l'accesso a tutti all'acqua. Io sono personalmente a favore per una fascia sociale, perfino per dare gratuitamente i primi 40 litri d'acqua, però facendo gravare sulla tariffa dei successivi consumi di acqua l'insieme, diciamo, dei costi. E c'è un problema enorme che l'ascoltatore, diciamo, sollevava, proprio di una regolazione di tutta questa materia, perché la contraddizione palese dell'ascoltatore mi è nota. Cioè, attualmente, per esempio, per un gestore non è conveniente investire, è conveniente investire in strutture, in opere nuove, ma non è conveniente investire in razionalizzazione e riduzione delle perdite. Quindi c'è un problema enorme di regolazione in un settore così importante come quello dell'acqua, che a mio avviso il referendum positivamente pone sul tappeto. Poi personalmente io non sono per dire che il pubblico è buono e che il privato è cattivo, nel senso che abbiamo avuto in Italia migliaia di gestioni pubbliche dell'acqua. In alcuni casi abbiamo avuto delle eccellenti gestioni, in alcune casi abbiamo avuto delle gestioni clientelari e inefficienti, perché quando noi parliamo di una perdita di rete dell'ordine di grandezza che l'ascoltatore ricordava, il 40% in alcune aree del sud, perfino qualcosa di più, parliamo quasi sempre di gestioni pubbliche. Quindi c'è un problema di regolazione. Aggiungo che c'è un problema che riguarda non solo l'acqua che arriva nei nostri rubinetti, ma riguarda il ciclo dell'acqua. Noi abbiamo quasi un 30% di italiani che non sono allacciati alle fogne. L'Unione Europea ha sollevato una procedura di infrazione proprio qualche settimana fa nei confronti dell'Italia per questo motivo. Abbiamo depuratori che non funzionano, insomma c'è molto da fare. Considero i sì al referendum una straordinaria occasione per rimettere mano in positivo a queste politiche. Ecco. Allora abbiamo ancora Mario da Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo fare una domanda, perché ormai la politica mi ha completamente disorientato, io non riesco più a capirci nulla. Allora io volevo chiedere questo: come mai le amministrazioni qui, ad esempio il comune di Reggio Emilia e altri comuni della provincia di Reggio Emilia, sono soci di IREN, che ovviamente è quotato in borsa, quindi è una società privata, questi percepiscono dei compensi, percepiscono dei dividendi dalla diciamo da Iren, ecco, e quindi adesso si stanno spanciando a stanno spingendo i cittadini a votare sì a questo referendum, che praticamente dovrebbe dare l'acqua gratis a tutti, mi pare di aver capito, cioè l'acqua è un bene comune, dovrebbe essere gratis per tutti. In realtà la costituzione dell'Iren mi sembra che sia stato un vero e proprio carrozzone politico dove praticamente invece di ridurre le bollette stanno aumentando, e stanno aumentando notevolmente le bollette qua, almeno io parlo in provincia di Reggio Emilia, le bollette aumentano e vengono a raccontare ai cittadini che l'acqua dovrebbe essere un bene pubblico e dovrebbe essere gratis, addirittura l'acqua dovrebbe essere gratis. Allora Mario, sentiamo Realacci come dice, e che oggi proprio mi mordo la lingua perché sennò dovrei fare molte osservazioni al merito di quello che ha detto, però al merito, perché se dobbiamo essere precisi, bisogna essere precisi anche in quello che si definisce pubblico. La società quotata non è detto che sia privata, perché dal punto di vista società organizzata privatamente, privatisticamente, il controllo resta pubblico, lei capisce? Allora lei ha fatto un po' di pasticcetti, per così dire, però sentiamo Realacci come la risponde. No, ecco, io le rispondo sul punto chiave, è che io non ho mai pensato che l'acqua debba essere gratis, perché sarebbe una cosa sciocca. Anzi, aggiungo, proprio perché va tutelato, diciamo, un bene pubblico, un bene di comune, un bene di straordinario interesse per il futuro come l'acqua, gli va dato un prezzo, nel senso che va, l'ho detto prima, garantito il minimo vitale a tutti, ma per capirci il resto va pagato, e quando parlo pagato non alludo solo alla bolletta dei cittadini. In Italia peraltro le bollette sull'acqua sono mediamente più basse di altri paesi europei. Vanno organizzate in maniera tale da favorire quelli che la usano bene e non quelli che la sprecano. Per esempio abbiamo anche intorno a Roma dei casi negativi di società di gestione dell'acqua che in una logica di mercato fanno pagare di meno l'acqua a chi ne consuma di più, perché è chiaro che è più semplice, per così dire, far riscuotere da un solo utente che consuma 10.000 litri d'acqua che non da 100 utenti che consumano 100 litri d'acqua. Però questa è una logica di mercato, non è una logica di salvaguardia del bene. E aggiungo che va fatta pagare di più anche con i giusti mezzi all'agricoltura e all'industria, perché questo spinge verso vantaggi anche di gestione. Per esempio nelle imprese, nell'industria italiana, l'uso del ciclo chiuso d'acqua è molto inferiore a quello che accade in altri paesi europei, anche perché l'acqua non costa molto. Lo stesso vale per l'agricoltura, l'irrigazione a scorrimento che si usa molto ancora nell'agricoltura italiana è una forma di irrigazione molto dispendiosa dal punto di vista dell'acqua. Quindi non significa che il fatto che sia un bene comune non significa assolutamente che debba essere gratuito. Allora eccoci tornati qua per la conclusione delle ultime telefonate di voi e con la risposta di Realacci alla domanda di Ferdinando da Bologna: cosa succede se la prossima sera d'inverno alle 19 c'è il fabbisogno al picco con 60 gigawatt e quindi non c'è il solare, perché poi l'eolico dipende da come stanno soffiando i venti, c'è bisogno di forme di accumulo di energia. Volevo approfittare per dire anche una cosa: attualmente l'Italia ha molte più centrali di quelle che gli servono per alimentare il proprio fabbisogno. Ad esempio noi abbiamo un parco di cicli combinati a gas molto efficienti e molto poco costosi, che utilizziamo meno del 50% della loro forza, e in qualche perché caso purtroppo ha contribuito anche il fatto che poi con gli ultimi 2 anni di crisi, insomma, i consumi sono arretrati significativamente. E poi abbiamo anche delle cose adesso, però per esempio se vogliamo far risparmiare subito 700-800 milioni di euro all'anno nella bolletta agli italiani, dovremmo favorire rapidamente l'interconnessione fra Calabria e Sicilia, perché cosa accade oggi? Che siccome il prezzo del kilowattora è giustamente lo stesso, a mio avviso perlomeno, a Messina e a Bergamo, no? La possibilità di trasportare energia in Sicilia è molto bassa, questo fa sì che noi continuiamo a usare in Sicilia centrali vecchie, più costose e più inquinanti, e questo produce un extra costo nelle pallette di tutti, circa 700-800 milioni di euro all'anno. Ma per venire al tema posto dall'ascoltatore, bisogna studiare forme di accumulo dell'energia. Pensate alla Germania, che nel 2020 avrà il 40% di energia in gran parte da eolico e solare, perché ripeto, loro non hanno idroelettrico. Da questo punto di vista l'Italia è nell'immediato avvantaggiata, e poi c'è una frontiera tecnologica. Perché avvantaggiata? Perché la forma più classica di accumulo di energia elettrica sono i cosiddetti pompaggi. Cosa sono i pompaggi? Uno prende, quando ha troppa energia, l'acqua e la porta nei bacini in alto, di montagna, nei bacini idroelettrici. E ciò su cui è aperta la polemica fraterna. Esattamente, e non a caso, bene. Poi a volte magari il cittadino fa fatica a capirlo, non a caso su questo c'è una feroce polemica, uno scontro oggi fra Terna e Enel su chi deve gestire questi pompaggi, perché è una delle, e in questo l'Italia per esempio è messa molto meglio della Germania, perché ripeto, la Germania ha poco idroelettrico. Poi c'è tutta una partita che riguarda le varie forme di accumulo, le nuove forme di batterie, l'idrogeno molto spesso è stato molto pubblicizzato, ma in realtà l'idrogeno ha un problema di fondo, nel senso che non è una fonte di energia, ma è una maniera per trasmettere energia, bisogna produrre l'idrogeno. Allora, un peso più forte delle rinnovabili, un modificarsi, diciamo, delle forme di produzione dell'energia può spingere verso nuovi vettori, tra cui l'idrogeno, che diventano delle frontiere tecnologiche molto importanti. Barbara da Milano, prego Barbara. Quell'intervento di Realacci mi ha convinto ancora una volta che non andrò a votare, proprio perché il tema energetico è un tema così complesso e integrato che deve essere deciso da chi ci governa. Il referendum quindi sul nucleare, proprio per questo motivo, non è assolutamente ben posto, abbiamo già fatto un errore nel 1986. Per quanto riguarda l'acqua, lei stesso Giannino fece rilevare in una trasmissione televisiva che c'era un quesito che è assolutamente sbagliato. Di conseguenza, anche per questo, non andrò a votare sul problema dell'acqua. E per quanto riguarda poi le affermazioni che ha fatto Realacci sul fotovoltaico, si dimentica di dire che l'efficienza del fotovoltaico è ancora relegata al 12-13%, e punte più alte si hanno soltanto in laboratorio. E si è dimenticato anche di dire che in Germania il grosso dell'energia viene prodotto col carbone, con centrali da 2, 3, 4, 5 gigawatt che noi non ci sogniamo neanche. Ultimo, il ritiro della Germania del nucleare, tutto da verificare perché è la terza volta che la Germania cambia cavallo, comporterà un aumento sia del gas sia del petrolio. Il nostro paese sarà ancora più penalizzato per quanto riguarda la competitività, e di conseguenza io non andrò a votare né a questo, né a quello dell'acqua, né agli altri due referendum. Grazie Barbara, e questa diventa la risposta finale di Ermete Realacci. No, guardi signora, la Germania è un paesetto emotivo e arretrato che cresce 4 volte più dell'Italia in termini economici. Forse quando fa queste scelte ha un minimo, diciamo, di lungimiranza. Poi guardi, la questione del rendimento del solare non è un problema nostro, nel senso che quella, l'energia è la fonte di quell'energia è molto distante da noi, il problema è capire quanto costa e la tecnologia che evolve, non il rendimento dalla radiazione solare, quello francamente è il meno. Comunque signora, lei giustamente utilizza la legge che c'è, se ci fosse una legge diversa sarebbe costretta a esprimere il suo punto di vista. Le dico solo una cosa, io vorrei che un'economia competitiva e avanzata come quella tedesca, preferisco quella. Su queste conclusioni posso dire che sono d'accordo, perché è un po' difficile non voler crescere di più con scelte serie, come si fanno di solito in quel paese, nel pubblico e nel privato, perché poi entrambi devono competere per la serietà e la competitività complessiva. Assolutamente sì. Bene, fine di questa, abbiamo fatto molti quesiti oggi, domani continuiamo, e domani ahimè sarò io, non è la stessa cosa, mettere l'acci è più bravo di me, ci metterò la passione. Comunque appuntamento a domani, perché davvero vedo che le chiamate saranno molte di più, mi scuso con gli ascoltatori. Grazie a Ermete Realacci, e pensate ancora fino all'ultimo momento se andare a votare, io ci vado, e come pensarla sui quesiti. Grazie a tutti.